Buongiorno. Siete anche voi entusiasti di vedermi? Walter, sei entusiasta, papà? Ok. Sei entusiasta, Walter, siamo a posto. Indovinate di che cosa parleremo questa mattina? Della famiglia. E nello specifico del rapporto fra marito e moglie, che è il fondamento della famiglia. Se funziona quello, nel senso, funziona anche tutto il resto della famiglia. Ho poco tempo e tante cose da dirvi, che sono importanti e che possono realmente cambiare lo stato delle cose. Possono fare un miracolo, perché a questo serve la predicazione della parola di Dio. Quando Dio ha detto sia la luce, non l'ha detta nessuno, perché non c'era nessuno, ma l'ha detto e la luce fu. Quindi aspettiamoci che anche questa mattina si possa accendere una luce speciale nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra famiglia. Quando si parla di matrimonio, quando si parla di marito e moglie, le reazioni sono molteplici e diverse. C'è qualche coppia che magari è entusiasta perché il suo matrimonio va bene, allora prova un sano orgoglio di quello che sta vivendo, qualche altra coppia un po' meno perché vive difficoltà, vive disagio. Qualche volta nella coppia stessa, uno, il marito per esempio, può essere entusiasta e la moglie può essere depressa perché nello stesso matrimonio vivono due cose diverse. Ma le reazioni dipendono da quello che si vive, da quello che si sperimenta e si può essere entusiasti o si può essere depressi. E i sentimenti che nascono quando le cose non vanno tanto bene, sono forse scoraggiamento, delusione, amarezza. E sono tanto più importanti questi sentimenti, tanto quanto è importante la sofferenza che proviamo. Cioè, più siamo delusi, più siamo amareggiati e più ci sentiamo a disagio quando si parla del matrimonio, si parla della famiglia. E in genere ci sono due sentimenti che prevalgono su tutti gli altri. Il primo è il rimpianto. Il rimpianto per quello che poteva essere e non è, il rimpianto per quello che si è immaginato e non si riceve, il rimpianto per quello che è successo, perché magari forse il nostro matrimonio, la nostra relazione tra marito e moglie è nata da circostanze difficili o da circostanze addirittura che hanno forzato, spinto, costretto e quindi poi il matrimonio diventa una gabbia nella quale noi viviamo. Il rimpianto per quello che poteva essere e non è. E poi la rassegnazione. La rassegnazione è a vari livelli. Più noi abbiamo lavorato, più ci siamo sforzati per far funzionare, per rianimare un poco, sapete quando fanno libera, così, in quel senso lì. E più abbiamo fatto questo tipo di operazioni nella nostra famiglia e più o meno ha funzionato, e più siamo rassegnati a dire, ma ok, io forse le ho provate tutte, non posso fare più niente, mi devo accontentare di quello che è. Una consolazione o, come dire, causa di sofferenza è il confronto che facciamo con gli altri. Noi ci confrontiamo con gli altri, che lo vogliamo o meno, e se ci confrontiamo con qualcuno che sta peggio di noi, ci sentiamo un po' sollevati. Dici, beh, poi io sto male, ma questo ha più fregato di me. Quindi noi ci consoliamo rispetto a questo. Oppure ci abbattiamo ancora di più vedendo magari l'unità di una coppia, la complicità di una coppia, e ci sentiamo male dicendo: ma perché per me non è così? E forse diventiamo amareggiati, forse diventiamo gelosi. Ma quello che vogliamo fare questa mattina è proprio confrontarci con alcune copie della parola di Dio, della Bibbia, per vedere loro come hanno affrontato le loro crisi, come hanno affrontato i loro momenti difficili e come li hanno risolti. Una cosa voglio dire subito e chiaramente: c'è speranza. C'è speranza per ogni coppia, c'è speranza per qualsiasi problema, c'è speranza per qualsiasi difficoltà, c'è speranza per qualsiasi livello di distanza che c'è fra marito e moglie. Perché a un certo punto la Bibbia fa una domanda, dice: ma c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? E la risposta è no. Quindi nemmeno le tue sofferenze, palesi o nascoste, sono troppo grandi perché Dio non le possa risolvere. E io desidero che questa verità scenda nel nostro cuore, perché se noi iniziamo a credere a questo, tutto quello che andiamo a dire avrà senso. Se noi ci chiudiamo nel dire no, non è più possibile, non c'è più niente da fare, ci possiamo alzare, ce ne possiamo andare. Abbiamo già finito di parlare. Iniziamo con una coppia che è nata male. Noi sentiamo parlare di famiglia, di coppia, di piano di Dio, e possiamo pensare: beh, se il marito, la moglie che io ho è Dio che me l'ha data, allora le cose possono andare bene. Ma se è qualcosa che è nato male, non ha speranza, non c'è niente da fare. Ebbene, io credo che nessuno in mezzo a noi abbia avuto un inizio più drammatico, più doloroso, meno opportuno di quello che è stato fra Davide e Bathsheba. Davide e Bathsheba, la loro storia è scritta in 2 Samuele al capitolo 11 e 12, io ve la riassumo. Davide era re di Israele e si annoiava. Cioè, si annoiava, sapete perché? Perché non stava facendo quel che Dio lo chiamava a fare, e quindi si annoiava. E non stava facendo altro che passeggiare sul suo terrazzo. Ai giorni nostri forse sarebbe andato a navigare un po' in internet, o sarebbe andato in un night club, o sarebbe andato in qualche posto per distrarsi, però a quel tempo c'era il suo terrazzo e lì lui si è rifugiato e si guardava attorno. Guardando attorno, l'occhio è caduto su una donna che stava facendo il bagno. Ora, l'occhio può cadere in una donna che sta facendo il bagno, però tu puoi onestamente ti giri dall'altra parte. Invece lui si è soffermato e si è reso conto che era proprio una bella donna, era qualcosa che era bello da vedere. Allora si è informato, e siccome era il re, poteva fare quello che voleva, ha mandato a prendere questa donna bellissima. È andata a letto assieme, si è tolto tutti gli sfizi che si doveva togliere e poi l'ha rimandata a casa. E tutto questo con prepotenza, perché lui era il re e decideva quello che era giusto o meno per la sua vita. Poi, una volta che si è sentito contento, Bathsheba l'ha mandata a casa sua, ha detto: ok, te ne puoi andare, stati bene. Se non che Bathsheba è rimasta incinta e l'ha mandata a dire a Davide. Ha detto: Davide, vedi che io sono incinta. E questa era una cosa che complicava un po' i piani di Davide, perché con le leggi che c'erano all'epoca, questa era una condanna a morte per tutti e due. Allora Davide, che era sempre il re, aveva tutto il potere ed era anche un po' mafioso, lo possiamo dire. Prima ha cercato di coprire e di fare in modo che la responsabilità della gravidanza ricadesse sul marito. Siccome questo non è andato a buon fine, ha fatto da mandante proprio per l'omicidio del marito di Bathsheba, che si chiamava Uzia, e ha fatto in modo che questo morisse. Quindi ha fatto adulterio, ha fatto degli intrighi, ha detto delle bugie e alla fine ha fatto anche un omicidio per coprire una gravidanza indesiderata. Però una volta che il marito è morto, che il lutto è finito, questa non è una storiella, questa è scritta nella parola di Dio, andate a leggere 2 Samuele 11 e 12 e trovate esattamente quello che io vi sto dicendo. Quando è finito il lutto, è finito tutto, ha detto a Bathsheba: ti puoi ritirare, ma possiamo fare tutto alla luce del sole e diventiamo marito e moglie. E secondo lui questo fatto aveva messo a posto tutte le cose. Però a Dio non tanto gli è piaciuto, anzi non gli è piaciuto per niente. e ha dovuto intervenire nella vita di Davide, e lo ha fatto tramite il profeta Samuele. Ed è scritto in 2 Samuele, al capitolo 12, al versetto 9, che Samuele dice al re, alla presenza di un sacco di persone: perché tu hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure. Dall'interno della tua stessa casa prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà loro alla luce del sole, poiché tu hai fatto questo in segreto, ma io lo farò davanti a tutto Israele e in faccia al sole. E Davide a questo punto ha fatto qualcosa di molto particolare, ha detto: ho peccato contro il Signore. Ha riconosciuto quello che aveva fatto. Però il riconoscere quello che aveva fatto comunque non lo ha, come dire, sollevato dalle conseguenze di quello che aveva fatto. E tutto quello che Dio ha detto comunque è successo. Però Natan rispose a Davide e disse: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Beh, io non credo che questo sia un bel inizio di coppia. Non credo che questo possa dare degli auspici buoni per dire: non ti preoccupare che le cose si aggiusteranno. Eppure, attraverso questa coppia e attraverso questa situazione è proseguito il piano di Dio per il popolo di Israele. Infatti è nato Salomone, e Salomone è stato il proseguimento del piano di Dio per il popolo di Israele. Questo significa che Dio può partire da una situazione disastrosa, può partire da una situazione drammatica e comunque far rientrare quella situazione nel piano di Dio. Tu questa mattina puoi pensare che il tuo matrimonio, che la tua famiglia sia un incidente di percorso, sia qualcosa che gli altri ti hanno buttato addosso, sia la conseguenza di una decisione affrettata, di una decisione superficiale o di una decisione che altri hanno preso per conto tuo, non ha importanza. La grazia di Dio, la potenza di Dio, la grazia dell'Evangelo può fare in modo che questa situazione rientri nel piano che Dio ha per la tua vita. E questo è il cuore di questo messaggio. Questo è quello che io desidero che rimanga nel tuo cuore e che tu inizi a credere a questo. Come è potuto succedere che una situazione così brutta, così drammatica, così incredibile sia potuta rientrare nel piano di Dio? Ci sono dei passaggi chiave che io vorrei guardare insieme a voi. Prima di tutto, Davide ha detto a Natan: io ho peccato contro il Signore. Questo è il primo passo: riconoscere il peccato davanti a Dio, ristabilire la propria relazione personale con Dio, riconoscere quello che era successo. Quando Davide ha detto: io riconosco il mio peccato davanti a Dio, ha riconosciuto il suo egoismo nel prendere una donna che non era sua moglie, ha riconosciuto la sua prepotenza nel prenderla con forza, ha riconosciuto la sua codardia nello scappare davanti alle circostanze e alle sue responsabilità, ha riconosciuto quanto è stato spietato nei confronti del marito di Bathsheba, condannandolo a morte. Ha riconosciuto tutto questo e lo ha messo davanti al Signore. Questo per dire che la guarigione della tua famiglia, la guarigione del tuo matrimonio, inizia con la guarigione del tuo cuore. Dio non potrà fare niente se non guarisce prima il tuo cuore. E Dio non potrà fare niente se tu non permetti a Lui di guarire il tuo cuore. Ma se noi apriamo questa porta, se noi apriamo questa possibilità, allora Dio prende la situazione nelle sue mani. È chiaro questo fatto? Lo devo dire da capo. La guarigione della tua famiglia, la guarigione del tuo matrimonio, inizia con la guarigione del tuo cuore. Può avere inizio solo con la guarigione del tuo cuore. E questo non ha importanza se ti sei sposato giovedì scorso come mio figlio, o ti sei sposato 32 anni fa come mia moglie e me, o ancora più di 50 anni fa come il fratello Pasquale Paccione e sua moglie. Non ha importanza. Ha importanza soltanto il fatto che tu riconosca davanti a Dio quella che è la situazione del tuo cuore. E poi Davide ha fatto un'altra cosa molto importante. È scritto in 2 Samuele, al capitolo 12, il versetto 24. Dopo aver messo a posto la sua relazione con Dio, Davide consolò Batsheba, sua moglie. Entrò da lei e si unì a lei. Approfondiremo fra poco l'aspetto di consolare, ma quello che io vorrei mettere davanti a voi è la tempistica. Davide ha consolato sua moglie e poi è entrato da lei. Davide ha consolato sua moglie e poi è andato a letto con lei. Invece io mi rendo conto che molte volte questo consolare, questo far pace, coincide troppo spesso con il coprire tutto con un lenzuolo. E non funziona. Non funziona. Non funziona. Perché poi tu uscirai da quel letto e ritroverai la situazione che hai lasciato. Il Signore è chiaro, prima devi mettere a posto la situazione, prima devi consolare, avere consolazione e poi puoi andare e ritrovare l'intimità anche della camera da letto. Come pensate che si sentiva Batsheba ad avere accanto a sé l'uomo che aveva abusato di lei, l'uomo che aveva causato la morte di suo marito, è l'uomo che era la causa della morte di suo figlio? Non credo che andare a letto sarebbe stata una grande consolazione per lei. Aveva bisogno di qualcosa di diverso. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Con che parole ha potuto consolare Davide e Batsheba? Con che azioni lo ha potuto fare? La consolazione produce un nuovo inizio, produce qualcosa di più profondo, e la consolazione ha la sua forza, ha la sua essenza nel perdono. Nel perdono non c'è niente che può consolare come il perdono, come il perdonare o l'essere perdonati. E troppe volte le nostre famiglie, i nostri matrimoni sono frenati, sono bloccati dalla mancanza di perdono, dalla nostra voglia di vendetta, dal nostro rimanere sulle nostre posizioni e sulle nostre ragioni. Questo non guarisce, questo divide. E quando noi non perdoniamo, sapete che cosa facciamo? Non facciamo altro che permettere al nostro passato di condizionare il nostro presente e il nostro futuro. Il passato non lo potremo mai più cambiare. È successo. Chi ci piaccia o meno, è successo. Ma noi possiamo scegliere se quello che è successo deve condizionare ancora e continuare a condizionare il nostro presente, il nostro futuro, o chiudere quella porta e aprirne un'altra, chiudere quella situazione e aprirne un'altra. Tutto questo ha la sua forza, ha la sua energia nel perdono. Uno, mettersi a posto con il Signore. Due, aprire la propria vita al perdono. Non era facile per Davide chiedere perdono quale re di Israele, a una donna, a sua moglie. Non era facile per Batsheba perdonare, ma era la loro unica occasione per avere una possibilità di iniziare di nuovo. Era la loro unica occasione per avere la possibilità di dare un seguito alla loro famiglia. Era l'unica occasione che Davide aveva per dare un seguito al suo regno. Perdonare è una decisione che non dipende dalle circostanze e non dipende neanche dai nostri sentimenti, perché i nostri sentimenti probabilmente ci spingeranno a difenderci, ad arroccarci nelle nostre ragioni. Ma perdonare è dire: ok, io voglio iniziare da capo, non voglio guardare più a quello che è successo, voglio guardare avanti, voglio guardare oltre, voglio prendere quella possibilità che Dio mi sta dando e la voglio sfruttare al meglio. Ma questa è una nuova possibilità. Ma noi siamo le persone che eravamo prima. Questa è una nuova possibilità. Ma noi possiamo continuare a pensare quello che pensavamo prima. E per questo abbiamo bisogno dell'esempio di un'altra coppia, di Abramo e Sara. A differenza di Davide e Batsheba, Abramo e Saba erano una coppia legittima. Proprio per loro era tutto a posto, era tutto regolare. Però anche se era tutto a posto, lo stesso avevano dei problemi, perché avevano una promessa. E che promessa avevano? Avevano la promessa di essere i progenitori del popolo di Israele, però i figli non venivano. E questo non è che funzionava tanto tra quello che Dio li chiamava ad essere e quelli che erano. E ognuno poteva vedere l'altro come il problema per adempiere alla volontà di Dio. Tutto questo fino a quando Sara, disperata, non ha detto ad Abramo: beh, basta che è un figlio, abilo dalla mia serva. E allora è venuto fuori che la responsabilità della sterilità della coppia era la sua. E questo, sapete che cosa? Invece di risolvere, ha aggravato i problemi. Perché ha costretto Abramo non solo a lottare con quella difficoltà, ma anche con la difficoltà nuova che era venuta. Ad che le telenovelas, la Bibbia è. E in tutto questo, Dio che fa? Mantiene la sua promessa. In Genesi, al capitolo 17, al versetto 4, è scritto: quanto a me, dice Dio, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Dio fa qualcosa di molto singolare. Cambia il nome, da Abramo, padre di molte nazioni, padre di una moltitudine di nazioni. E sapete perché lo fa? Per una ragione molto semplice: per gettare in Abramo il seme di quello che lui credeva che Abramo fosse, per permettere ad Abramo di vedersi con gli occhi attraverso i quali lui lo vedeva. Dio non aveva bisogno di essere convinto che la sua promessa, che la sua parola sarebbero andate ad effetto. Ma Abramo sì. E Abramo probabilmente si era rassegnato a quella che era la sua situazione. E quindi Dio ha gettato un seme nuovo e ha detto: tu non ti devi chiamare più Abramo, padre, ma ti devi chiamare Abramo, padre di una moltitudine di nazioni. Io penso che Abramo è rimasto un po' perplesso, penso io, e credo che sia stato ancora più perplesso quando ha dovuto dire ai suoi servi, ai suoi amici, a sua moglie: non mi devi chiamare più padre, ma mi devi chiamare padre di una moltitudine di nazioni. Eppure lui ha obbedito a quello che Dio gli diceva di fare, eppure lui ha creduto a quello che Dio gli diceva. Ma tutto questo non risolveva la situazione, perché Dio aveva bisogno della coppia per portare avanti il suo piano. E c'era bisogno anche della guarigione di Sara, perché Sara sapeva che era suo il problema e Sara sapeva che Abramo la poteva vedere come il problema della coppia, la poteva vedere come limite alla realizzazione delle promesse, e quindi Dio gli dà una terapia d'urto, gli dà una terapia che avrebbe guarito e che avrebbe permesso al piano di Dio stesso di andare a buon fine. È andato da Abramo e gli ha detto: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, sarà invece Sara. Ora, tra i significati del nome Sarai c'è litigiosa, cioè uno che da un pelo fa una corda. Ci riconosciamo questo fatto, no? Questo era uno dei significati del nome di Sarai. Invece il nome Sara significa proprio signora, principessa. E si sono messi a ridere tutte e due a questa richiesta di Dio. Però ci hanno creduto, però lo hanno fatto. E sapete, quando Abramo ha iniziato a chiamare sua moglie Sara, ha iniziato a consolarla, ha iniziato a guarirla. Mettiamola in questo modo. Dio stava chiedendo ad Abramo e Sara di vedersi come lui li vedeva. Di chiamarsi con il nome con il quale lui li chiamava. Stava chiedendo ad Abramo e Sara di essere e di realizzare quello che lui credeva che erano e che dovevano realizzare. Questo porta consolazione, questo porta guarigione, questo porta un nuovo modo di parlare e questo porta cambiamento. Ti sei mai chiesto come Dio vede tuo marito? Ti sei mai chiesto come Dio vede tua moglie? Se non te lo sei mai chiesto, hai lavorato a vuoto per il tuo matrimonio e per la tua famiglia. Forse ti sei sforzato, forse hai sudato il sangue e le lacrime per rimettere in piedi la tua relazione e fare in modo che abbia un po' di significato, ma se non inizi a chiederti quello che Dio vede in te e quello che Dio vede in tuo marito, in tua moglie, semplicemente non hai gli strumenti necessari per rimettere in piedi quella situazione. Ti sei mai chiesto cosa Dio pensa di tuo marito? Che cosa pensa di tua moglie? Che cosa pensi tu di tuo marito? Non lo dire. Che cosa pensi tu di tua moglie? Coincide con quello che Dio pensa? Il lavoro è proprio far coincidere questo. Come chiami tua moglie? Come chiami tuo marito? Dio chiama tuo marito figlio mio. Dio chiama tua moglie figlia mia. E tu come le chiami? Capite quanto è importante iniziare a chiedersi queste cose, iniziare a lavorare a queste cose? E badate bene, Dio per primo ha rivelato ad Abramo quello che pensava. Ed è Dio che ha dato il nome ad Abramo, ed è Dio che ha dato il nome a Sara. Allora forse è tempo che noi iniziamo a chiederci: Signore, qual è il nome che tu mi hai dato? Signore, qual è il nome che tu hai dato a mia moglie? Qual è il nome che tu hai dato a mio marito? È ora che noi iniziamo a dire: io così lo voglio vedere, io così lo voglio chiamare. Perché questo significa cambiare la situazione della tua famiglia. Questo significa cambiare la situazione del tuo matrimonio, perché vedere e pronunciare le parole che Dio pronuncia significa profetizzare nella vita delle altre persone e nello specifico di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi figli. Vedete, noi possiamo perdonare, perché è sempre da lì che si inizia. E iniziare o continuare a pensare quello che pensiamo di nostro marito e di nostra moglie non cambierà niente. Non cambierà niente. E noi ci scontreremo e riscontreremo con le stesse difficoltà, con le stesse situazioni, con le stesse circostanze. O noi possiamo perdonare e iniziare a chiederci che cosa vuole Dio che noi facciamo, che cosa vuole Dio che noi diciamo e pensiamo di nostro marito e di nostra moglie, e lì innescare veramente un cambiamento, lì innescare veramente una guarigione, lì innescare un cambiamento di cultura della nostra famiglia, del nostro matrimonio. È qualcosa che ha una radice spirituale, perché è Dio che lo rende possibile, la sua grazia che lo rende possibile nella nostra vita, ma è qualcosa anche che ha a vedere molto praticamente con le decisioni quotidiane che noi facciamo. Siamo noi che possiamo decidere di dire no, mia moglie si chiama, oppure dire no, mia moglie si chiama come Dio dice. Siamo noi che possiamo decidere di dire no, mio marito quello è, o decidere no di dire mio marito è quello che Dio dice che è. Siamo noi che lo decidiamo. Dio ci dà la possibilità di fare questa decisione, ma noi abbiamo l'onore e l'onere di farlo. Cambiare il nostro nome, il nome di nostra moglie, il nome dei nostri figli, con il nome che Dio ha dato loro. Questo cambia le cose, questo cambia la nostra famiglia, questo cambia la nostra chiesa, questo cambia la nostra società. Questa è la grazia dell'Evangelo. Altrimenti noi veniamo in chiesa, ci abbracciamo, ci baciamo, ci facciamo, e quello che viviamo nella nostra famiglia è qualcosa di completamente diverso. E delle due verità, una la dobbiamo scegliere. E una è la vera verità, perché una delle due è una recita. Decidete voi qual è. Dio ama le famiglie. Dio ama la tua famiglia, esattamente come amava la famiglia di Davide e la famiglia di Abramo. Allo stesso modo lui ha la voglia, il desiderio di compiere il piano che lui ha con la tua famiglia. E il piano che lui ha con la mia famiglia, con la tua famiglia, è che venga il suo regno e sia fatta la sua volontà, né di più e né di meno. Però per tutto questo è necessario che noi iniziamo a credere. È necessario che noi iniziamo ad avere di nuovo speranza, a ritornare sui nostri passi, a chiedere perdono a Dio, a perdonare, a perdonarci e ad aprire una nuova prospettiva su quello che crediamo sia la nostra realtà di coppia, su quello che è nostro marito, su quello che è nostra moglie. Iniziamo a credere. Iniziamo a farlo adesso, perché io credo che basta a continuare a lottare, a continuare a soffrire, a continuare a star male, a continuare a vivere nel fallimento, quando Dio ci offre questa possibilità attraverso la sua grazia di realizzare la sua volontà nella nostra vita e nella nostra famiglia. Prendiamo queste parole, facciamole nostre, crediamole e viviamole. E questo dà gloria al suo nome e soprattutto permette a Lui di agire e operare quei cambiamenti che tanto noi desideriamo. Vogliamo farlo? Amen.